Salve, sono una ragazza siriana che vive qua in Italia da quasi 13 anni. Siamo fuggiti dalla guerra in Siria, però comunque parte della mia famiglia e amici e amiche mie si trovano attualmente in Siria e siccome sono molto legata a loro, sono continuamente in contatto con loro per sapere un po' le notizie e quello che sta accadendo nel mio paese, soprattutto dopo il colpo, diciamo, di Stato che ha portato via il nostro ex presidente. Presidente Assad. Diciamo che questa situazione ci ha liberato da una situazione di dittatoria che vigeva sulla Siria da tantissimi anni. Quindi, in un primo momento è stato osservato come un qualcosa di gioioso, perché una rivolta che ha portato alla liberazione da una situazione che ci portava a vivere sempre in continuo terrore e paura. Però purtroppo attualmente il nostro paese è governato da questi jihadisti che comunque sia sono altamente conservatori e questo fa sì che le donne non siano altrettanto libere perché stanno imponendo per lo più regole, soprattutto per quanto riguarda mettere il velo, tantissime altre regole, come per esempio adesso sui bus i maschi e le femmine sono separati, non si possono sedere in posti in comune, bensì gli uomini si siedono nella parte avanti del bus, mentre le donne nella parte posteriore. Ci sono molti limiti, molte donne sono state licenziate dai loro lavori perché secondo loro le donne non dovrebbero lavorare, dovrebbero essere a casa a mantenere la famiglia e essere appunto delle casalinghe. Quindi diciamo che la situazione sta un po' retrocedendo verso gli anni passati, proprio gli anni proprio di mia nonna, quando vigeva per l'appunto un governo molto simile. Per esempio, mia nonna, nonostante il fatto che avesse una religione cristiana, lei non poteva uscire di casa se non era coperta da testa fino ai piedi e senza appunto portare il velo. Comunque è una situazione così precaria e alquanto paurosa per noi donne perché non ci sentiamo libere di esprimere appunto la nostra libertà. Inoltre, qualche giorno fa nel mio paese c'è stata una strage verso le popolazioni di religioni minori, come per esempio anche persone cristiane, dove sono state ammazzate tantissimi ragazzi e ragazze, ma anche e soprattutto donne, non solo ammazzate e uccise, ma anche stuprate. E i ragazzi che sono stati ammazzati sono comunque degli studenti, delle persone normali, studenti di farmacia, di medicina, di ingegneria, quindi sono delle persone che non portavano niente di negativo e non facevano niente di male nei confronti del nostro paese, ma comunque sì, hanno subito, diciamo, questa strage solamente per motivi religiosi o comunque sia per altri motivi che fino adesso non sappiamo il perché di questo.